6 e. Ascolta e trasforma. Ecco il tuo libro. Ecco i tuoi libri. Ecco il tuo telefonino. Ecco i tuoi telefonini. Ecco il tuo cappotto. Ecco i tuoi cappotti. Ecco il tuo tavolo. Ecco i tuoi tavoli. Non trovo la tua penna. Non trovo le tue penne. Non trovo la tua fotografia. Non trovo le tue fotografie. Non trovo la tua ricetta. Non trovo le tue ricette. Non trovo la tua raccomandata. Non trovo le tue raccomandate.